Racconto alla rovescia. L'Italia nello spazio. Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con Conte alla rovescia. L'alieno esiste ed è già tra noi. Per essere precisi, è sul fondo di un lago della California, dove i ricercatori della NASA hanno scoperto un batterio con un metabolismo basato sull'arsenico, pensate. In realtà il termine alieno va preso con le molle, è uno dei tanti batteri estremofili in grado cioè di sopravvivere in condizioni estreme, assolutamente inospitali. Ci spiega tutto il professor Enrico Flamigni dell'Agenzia Spaziale Italiana. Beh, è una scoperta, diciamo, che conferma che gli ambiti in cui la vita si può sviluppare sono molto più ampi di quelli che potevamo immaginare solo pochi anni fa. Già erano stati scoperti dei batteri che si sono sviluppati in ambienti estremi, cosiddetti estremofili. Quest'ultima scoperta amplia ancora di più questo orizzonte, anche in un ambiente totalmente aggressivo e a priori assolutamente contrario alla vita, come può essere un lago in cui l'arsenico domina l'ambiente, ovviamente. In che modo questo ci può aiutare o insegnare qualche cosa nell'ambito dell'esplorazione, che ovviamente è rivolta allo spazio? Diciamo, ci indica, per essere più precisi, ad aprire gli occhi verso possibilità di forme di vita anche in posti dove magari a priori non si sarebbero potute cercare o aspettare, quindi di avere, puoi dire, una mentalità un po' più aperta nel ricercare quelle che sono appunto forme di vita. Non necessariamente dobbiamo trovare un ambiente caldo con umidità, acqua e quant'altro. Insomma, magari anche in luoghi relativamente vicini a noi che sono sempre stati un po' esclusi, per esempio Venere. Per esempio Venere, è chiaro che è abbastanza improbabile, è altrettanto chiaro che sarà difficilissimo poter anche soltanto cercarle queste forme di vita su un pianeta che è grande come la Terra ma difficilissimo da esplorare, però a questo punto non possiamo escluderlo del tutto. Grazie professore, grazie mille. 7 dicembre da Cape Canaveral, lancio previsto per Falcon 9 di proprietà della società privata americana SpaceX di Elon Musk. È la prima volta che un privato tenta l'impresa di lanciare in orbita una navicella. Quali scenari si aprono? Chiara Albicoccolo ha chiesto all'astrofisico Giovanni Bignami. Io ho l'impressione che ci sia ancora molta strada da fare. L'ambito privato è senz'altro molto interessante e importante, ma da quello che so della NASA, certamente non sarà con l'ambito privato che la NASA risolverà il suo problema più importante, che è quello dell'esplorazione umana, cioè del riportare degli uomini in orbita e poi al di là della Luna. La NASA non delegherebbe mai una responsabilità così grave interamente a qualcun altro. Ancora rinvii intanto per lo Shuttle Discovery, per problemi più seri del previsto. Questa volta la finestra si apre non prima del 17 dicembre. La forma ricorda quella dello Shuttle, ma le dimensioni sono completamente diverse e così gli scopi. X-37B è un progetto americano, un progetto militare, rientrato sulla Terra dopo 6 mesi nello spazio. E ora l'Italia, o meglio lo spazio italiano. Lucca infatti ospiterà la prima piattaforma internazionale sull'esplorazione spaziale nell'autunno del 2011. L'annuncio è stato dato nel corso del 7° Consiglio sullo spazio ESA-UE. Per la prima volta si confronteranno le delegazioni di tutti i paesi sulle priorità da attribuire ai progetti di esplorazione spaziale. E ora concludiamo, come sempre, sui prossimi lanci. Abbiamo detto il 7 dicembre è prevista la partenza di SpaceX, un momento davvero importante, come di sicuro importantissimo il 15 dicembre sarà dunque il giorno di Paolo Nespoli e della missione Magistra. Il 15 è infatti fissato l'accensione dei motori della Soyuz ad attendere l'equipaggio di 3 cosmonauti, in questo caso sulla stazione spaziale ci sarà naturalmente l'equipaggio precedente che attende il cambio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Bene, con questo abbiamo concluso il nostro appuntamento. Vi ricordo che entriamo in una fase ricca di eventi, cercheremo di raccontarveli naturalmente attraverso il giornale radio, attraverso gli spazi di approfondimento e naturalmente attraverso l'appuntamento della domenica pomeriggio. Un saluto. We have ignition.